videro Nicolas arrivare a casa un giorno qualunque, senza preavviso, con un pannolino da neonati che gli copriva le vergogne, la pelle appiccicata alle ossa e quell'aria stravolta che si nota nella gente che si nutre di verdure. Arrivò accompagnato da un paio di carabinieri increduli che erano intenzionati ad arrestarlo a meno che dimostrasse di essere veramente il figlio del senatore Trueba, e da un codazzo di bambini che lo seguivano tirandogli immondizie e sbeffeggiandolo. Clara fu l'unica che non ebbe difficoltà a riconoscerlo. Suo padre tranquillizzò i carabinieri e ordinò a suo figlio di farsi un bagno e di mettersi indumenti da cristiano se voleva vivere in casa sua. Ma Nicolas lo guardò come se non lo vedesse e non gli rispose. Era diventato vegetariano, non assaggiava la carne, il latte, nemmeno le uova. La sua dieta era quella di un coniglio e a poco il suo volto ansioso somigliava sempre più a quello dell'animale. Masticava ogni boccone dei suoi scarsi alimenti 50 volte. I pasti si trasformarono in un rituale eterno durante cui Alba si addormentava sul piatto vuoto e i servitori con i vassoi in cucina, mentre lui ruminava cerimoniosamente, sicché Esteban Trueba smise di rincasare e consumava tutti i suoi pasti al club. Nicolás asseriva di poter camminare scalzo sulle braci, ma ogni volta che si accingeva a dimostrarlo a Clara veniva un attacco d'asma e lui doveva desistere. Parlava con parabole asiatiche, non sempre comprensibili. I suoi unici interessi erano di ordine spirituale. Il materialismo della vita domestica gli dava fastidio, così come le eccessive cure di sua sorella e di sua madre che insistevano nell'alimentarlo e nel vestirlo. E la persecuzione affascinata di Alba che lo seguiva in tutta la casa come un cagnolino, pregandolo di insegnarle a stare dritta sulla testa e a trafiggersi con gli spilloni. Rimase nudo anche quando arrivò l'inverno, in tutto il suo rigore. Poteva restare quasi 3 minuti senza respirare ed era pronto a mettere in pratica quella prodezza ogni volta che qualcuno glielo chiedeva, il che accadeva con frequenza. Jaime diceva che era un peccato che l'aria fosse gratis perché aveva fatto il conto che Nicolas respirava alla metà di una persona normale, anche se questo sembrava non disturbarlo affatto. Passò l'inverno mangiando carote, senza lamentarsi del freddo, chiuso in camera sua, riempiendo pagine e pagine della sua minuscola calligrafia con inchiostro nero. Alla comparsa dei primi sintomi della primavera, annunciò che il suo libro era finito. Aveva 1500 pagine. E riuscì a convincere suo padre e suo fratello Jaime a finanziarlo, in conto dei guadagni che si sarebbero ricavati dalla vendita. Dopo averle corrette e stampate, le mille e tante cartelle manoscritte si ridussero a 600 pagine di un voluminoso trattato sui 99 nomi di Dio e su come raggiungere il nirvana mediante esercizi di respirazione. Non ebbe il successo sperato. E le casse dell'edizione finirono i loro giorni in cantina dove Alba li usava come mattoni per costruire trincee finché molti anni dopo non servirono per alimentare un infame rogo. Come il libro uscì dalla tipografia, Nicolas se lo tenne amorosamente fra le mani, recuperò il suo smarrito sorriso da iena, si mise abiti decenti e annunciò che era giunto il momento di consegnare la verità ai suoi coetanei che persistevano nelle nebbie dell'ignoranza. Esteban Trueba gli ricordò il suo divieto di usare la casa come accademia e lo avvertì che non avrebbe tollerato che cacciasse idee pagane nella testa di Alba e ancora meno che le insegnasse trucchi da fakiro. Nicolas se ne andò a predicare nel piccolo bar dell'università, dove trovò un numero impressionante di adepti per i suoi corsi di esercizi spirituali e respiratori. Nei momenti liberi girava in moto e insegnava a sua nipote a vincere il dolore e altre debolezze della carne. Il suo metodo consisteva nell'identificare le cose che infondevano paura. La bambina, che aveva una certa inclinazione per il macabro, si concentrava secondo le istruzioni dello zio e riusciva a visualizzare come se la stesse vivendo la morte di sua madre. La vedeva livida, fredda, con i suoi bellissimi occhi neri chiusi, distesa nella cassa da morto, udiva il pianto dei familiari, vedeva la processione di amici che entravano in silenzio. Lasciavano il loro biglietto da visita e uscivano a testa bassa. Sentiva l'odore dei fiori, il nitrito dei cavalli impennacchiati della carrozza funebre. Aveva male ai piedi nelle sue nuove scarpe da lutto. Immaginava la sua solitudine, il suo abbandono, l'essere orfana. Suo zio l'aiutava a pensare a tutto questo senza piangere, a rilassarsi e a non opporre resistenza, al dolore affinché l'attraversasse senza rimanere in lei. Altre volte Alba si schiacciava un dito nella porta e imparava a sopportare l'ardente bruciore senza lagnarsi. Se riusciva a passare tutta la settimana evitando di piangere, superando le prove che le imponeva Nicolas, vinceva un premio che consisteva quasi sempre in un giro a tutta velocità in moto, cosa che era un'esperienza indimenticabile. Una volta andarono a finire in mezzo a una mandria di mucche che si avviava verso la stalla, su una strada nei dintorni della città dove aveva portato sua nipote per pagare il premio. Lei avrebbe ricordato sempre i corpi pesanti degli animali, la loro goffaggine, le loro code infangate che le colpivano il viso, l'odore di sterco, le corna che la sfioravano e la sua sensazione di vuoto allo stomaco, di meravigliosa vertigine, di incredibile eccitazione, un miscuglio di appassionata curiosità e di terrore che riprovò solo per istanti fugaci nella sua vita. Esteban Trueba, che aveva avuto sempre difficoltà nell'esprimere il suo bisogno d'affetto e che da quando si erano deteriorati i rapporti matrimoniali con Clara non aveva accesso alla tenerezza, riversò su Alba i suoi sentimenti migliori. Gli importava più la bambina di quello che i suoi stessi figli gli avevano importato. Ogni mattina lei andava in pigiama nella stanza del nonno, entrava senza bussare e si infilava nel suo letto. Lui fingeva di svegliarsi di soprassalto, sebbene in realtà stesse aspettandola, e grugniva che non lo importunasse, che se ne andasse dalla sua camera e che lo lasciasse dormire. Alba gli faceva il solletico finché, apparentemente vinto, non l'autorizzava a cercare il cioccolato che nascondeva per lei. Alba conosceva tutti i nascondigli e suo nonno se ne serviva sempre nello stesso ordine, ma per non farlo restar male si affaccendava per un po' a cercare e cacciava grida di giubilo quando lo trovava. Esteban non seppe mai che sua nipote odiava il cioccolato e che lo mangiava per amor suo. Con questi giochi mattutini il senatore soddisfaceva il suo bisogno di contatto umano e per il resto della giornata era occupato al congresso, al club, al golf, negli affari e nei suoi conciliaboli politici. 2 volte all'anno andava alle Tre Marie con sua nipote per 2 o 3 settimane. Entrambi tornavano abbronzati, più grassi e felici. Lì distillavano un'acquavite casereccia che usavano per bere, per accendere la stufa, per disinfettare ferite e per ammazzare gli scarafaggi, e che loro chiamavano pomposamente vodka. Al termine della sua vita, quando i 90 anni l'avevano trasformato in un vecchio albero contorto e fragile, Esteban Trueba avrebbe ricordato quei momenti con sua nipote come i migliori della sua esistenza. Eppure lei conservò sempre nella memoria la complicità di quei viaggi in campagna per mano a suo nonno, le passeggiate sul dorso del cavallo, l'imbrunire nell'immensità dei seminati, le lunghe serate vicino al caminetto a raccontare storie di fantasmi e a disegnare. I rapporti del senatore Trueba col resto della sua famiglia non smisero di peggiorare col tempo. Una volta alla settimana, il sabato, si riunivano a cena intorno alla grande tavola di quercia che era rimasta sempre in famiglia e che prima era appartenuta ai Del Valle, ossia proveniva dalla più antica antichità ed era servita per vegliare i morti, per i balli di flamenco e altri usi inimmaginabili. Mettevano a sedere Alba tra sua madre e sua nonna, con un cuscino sulla seggiola affinché il suo naso arrivasse al piatto. La bambina osservava gli adulti affascinata, sua nonna raggiante con i denti messi per l'occasione, che inviava messaggi obliqui a suo marito attraverso i figli o i servitori, Jaime che faceva sfoggio di maleducazione, rottando dopo ogni portata e pulendosi i denti col dito mignolo per dar fastidio al padre. Nicolas con gli occhi chiusi che masticava 50 volte ogni boccone e Blanca che blaterava di qualunque cosa per creare la finzione di una cena normale. Trueba se ne stava relativamente silenzioso finché non lo tradiva il suo brutto carattere e cominciava a litigare con suo figlio Jaime per via dei poveri, delle votazioni, dei socialisti e per principio, o a insultare Nicolas per le sue iniziative di levarsi in volo sul pallone e di praticare l'agopuntura con Alba, o a punire Blanca con le sue risposte brutali, la sua indifferenza e i suoi avvertimenti inutili che gli avevano rovinato la vita e che non avrebbe ereditato nemmeno un soldo da lui. L'unica che non attaccava era Clara, ma con lei quasi non parlava, Talvolta Alba coglieva gli occhi del nonno fissi su Clara e se ne stava lì a guardarla e diventava bianco e dolce fino a sembrare un vecchio sconosciuto. Ma non succedeva spesso. In genere i coniugi si ignoravano. Qualche volta il senatore Trueba perdeva il controllo e gridava tanto da diventare rosso e bisognava gettargli in faccia l'acqua fredda della brocca perché gli passassero le convulsioni e riprendesse il ritmo del respiro. In quell'epoca Blanca aveva toccato l'apogeo della sua bellezza. Aveva un'aria da mora, languida e abbondante, che ispirava riposo e confidenza. Era alta e formosa, di temperamento svanito e piagnucoloso, che risvegliava negli uomini l'ancestrale istinto di protezione. Suo padre non l'aveva in simpatia, non le aveva perdonato i suoi amori con Pedro Terzo Garcia e faceva di tutto per ricordarle che viveva della sua misericordia. Trueba non riuscì a spiegarsi come sua figlia avesse tanti corteggiatori, perché Blanca non aveva nulla dell'inquietante allegria e della giovialità che lo attraevano nelle donne, e inoltre pensava che nessun uomo normale potesse nutrire il desiderio di sposarsi con una donna di scarsa salute, dallo stato civile incerto e con una figlia a carico. Da parte sua, Blanca non sembrava stupita dell'assedio degli uomini, era consapevole della sua bellezza. Tuttavia, dinanzi ai signori che le facevano visita, assumeva un atteggiamento contraddittorio, allettandoli col vibrare dei suoi occhi musulmani, ma tenendoli a prudente distanza. Non appena vedeva che le intenzioni dell'altro erano serie, interrompeva il rapporto con un rifiuto feroce. Taluni, di posizione economica migliore, tentarono di arrivare al cuore di Blanca attraverso la seduzione della figlia. Riempivano Alba di regali costosi, di bambole dotate di meccanismi per camminare, piangere, mangiare ed eseguire altre destrezze tipicamente umane. La rimpinzavano di paste alla crema e la portavano a spasso al giardino zoologico, dove la bambina piangeva di pena per le povere bestie prigioniere, specialmente la foca che le destava nell'animo funesti presagi. Quelle visite al giardino zoologico, per mano di qualche pretendente panciuto o spendereccio, le lasciarono per il resto della vita l'orrore del chiuso, dei muri, delle inferriate, dell'isolamento. Fra tutti gli innamorati, quello che andò più vicino alla conquista di Blanca fu il re delle pentole a pressione. Nonostante la sua immensa fortuna e il suo carattere mite e riflessivo, Esteban Trueba lo detestava perché era circonciso, aveva il naso sefardita e i capelli ricci. Col suo atteggiamento ironico e ostile, Trueba riuscì a scacciare quell'uomo che era sopravvissuto a un campo di concentramento, aveva vinto la miseria e l'esilio e aveva trionfato nella spietata lotta commerciale. Finché durò l'idillio, il re delle pentole a pressione passava a prendere Blanca per portarla a cena nei posti più raffinati, in un'automobile minuscola con solo due posti, con ruote da trattore e un rumore di turbina nel motore, unica nella sua specie, che riuniva capannelli di curiosi quando passava e riluttanza sprezzante nella famiglia Trueba. Senza badare all'insofferenza del padre né all'indiscrezione dei vicini, Blanca saliva sull'auto con la maestà di un primo ministro. Vestita col suo unico tailleur nero e la camicetta di seta bianca che usava in tutte le occasioni speciali, Alba la salutava con un bacio e restava ferma sulla soglia col sottile profumo di gelsomino di sua madre appiccicato alle narici e un nodo di ansia che le serrava il petto. Solo gli allenamenti di suo zio Nicolas le permettevano di sopportare quelle uscite di sua madre senza mettersi a piangere, perché temeva che un giorno o l'altro il damerino di turno sarebbe riuscito a convincere Blanca ad andarsene con lui e lei si sarebbe trovata per sempre senza madre. Aveva deciso da molto tempo che non aveva bisogno di un padre e ancora meno di un patrigno, ma che se fosse mancata sua madre, sarebbe andata ad affondare la testa in un secchio d'acqua sino a morire affogata, proprio come faceva la cuoca con i gattini che partoriva la gatta ogni 4 mesi. Alba perdette il timore che sua madre l'abbandonasse quando conobbe Pedro III. E la sua intuizione l'avvertì che finché fosse esistito quell'uomo non ce ne sarebbero stati altri capaci di conquistare l'amore di Blanca. Fu una domenica d'estate. Blanca l'aveva pettinata con i boccoli, arricciati con un ferro caldo che le aveva bruciacchiato le orecchie, le aveva messo guanti bianchi e scarpe di vernice nera e un cappello di paglia con ciliegine finte. Vedendola, Sua nonna Clara era esplosa in una risata, ma sua madre l'aveva consolata con due gocce del suo profumo che le aveva messo nel collo. Conoscerai una persona famosa, aveva detto Blanca misteriosamente mentre uscivano. Portò la bimba al parco giapponese, dove le comprò birribissi di zucchero filato e un cartoccio di grano turco. Si sedettero su una panca, all'ombra, tenendosi per mano, circondate dai colombi che beccavano il grano turco. Lo vide avvicinarsi prima che sua madre glielo indicasse. Aveva una tuta da meccanico, un'enorme barba nera che gli arrivava a metà del petto, i capelli spettinati, sandali da francescano senza calze e un ampio, scintillante, meraviglioso sorriso che lo collocò subito nella categoria degli esseri che meritavano di essere dipinti nel gigantesco affresco della sua camera. L'uomo e la bambina si guardarono. Ed entrambi si riconobbero negli occhi dell'altro. Questo è Pedro III, il cantante. L'hai sentito alla radio, disse sua madre. Alba allungò la mano e lui gliela strinse con la sinistra. Allora si accorse che gli mancavano alcune dita alla mano destra, ma lui le spiegò che poteva comunque suonare la chitarra perché c'è sempre modo di fare quello che si vuol fare. Passeggiarono tutte e tre per il parco giapponese. Verso sera salirono su uno degli ultimi tram elettrici che ancora esistevano in città e andarono a mangiare pesce in una friggitoria del mercato. E quando fu buio, lui le accompagnò fino alla strada di casa. Al momento di salutarsi, Blanca e Pedro III si baciarono sulle labbra. Fu la prima volta che Alba vide questo in vita sua, perché intorno a lei non c'era gente innamorata. Da quel giorno in poi, Blanca cominciò a uscire da sola per il fine settimana. Diceva che andava a trovare certe cugine lontane. Esteban Trueba si infuriava e minacciava di cacciarla di casa, ma Blanca rimaneva inflessibile nella sua decisione. Lasciava sua figlia con Clara e saliva in autobus con una valigetta da pagliaccio con fiori dipinti. Ti prometto che non mi sposerò e che tornerò domani notte, diceva la figlia salutandola. Ad Alba piaceva sedersi con la cuoca all'ora della siesta, ad ascoltare alla radio canzoni popolari, specialmente quelle dell'uomo che aveva conosciuto nel parco giapponese. Un giorno entrò nella dispensa il senatore Trueba e, sentendo la voce della radio, si scagliò contro l'apparecchio, dandogli bastonate sino a ridurlo in un mucchio di cavi contorti e di bulloni sparsi, davanti agli occhi spaventati di sua nipote, che non riusciva a spiegarsi l'improvvisa furia di suo nonno. Il giorno dopo, Clara comprò un'altra radio affinché Alba potesse ascoltare Pedro III quando ne aveva voglia e il vecchio Trueba fece finta di non accorgersene. Quella era l'epoca del re delle pentole a pressione. Pedro III venne a sapere della sua esistenza ed ebbe un attacco di gelosia ingiustificata se si paragona il grande ascendente che lui aveva su Blanca col timido corteggiamento del commerciante ebreo. Come tante altre volte aveva supplicato Blanca di lasciare la casa dei Trueba, la tutela feroce di suo padre e la solitudine del suo laboratorio pieno di mongoloidi e di signorine sfaccendate, e se ne andasse con lui, una volta per tutte, a vivere quell'amore sfrenato che avevano nascosto fin dall'infanzia. Ma Blanca non si decideva. Sapeva che se se ne andava con Pedro III sarebbe rimasta esclusa dalla sua cerchia sociale e dalla posizione che aveva sempre avuto. E si rendeva conto che lei non aveva la minima occasione di trovarsi a suo agio fra le amicizie di Pedro III o di adattarsi alla modesta esistenza di un quartiere operaio. Anni dopo, quando Alba ebbe l'età per analizzare quell'aspetto della vita di sua madre, giunse alla conclusione che non se n'era andata con Pedro III perché l'amore non le bastava, visto che in casa dei Trueba non aveva niente che lui non potesse darle. Blanca era una donna molto povera, che poteva disporre di un po' di denaro solo quando Clara glielo dava o quando vendeva qualche presepe. Guadagnava un misero stipendio che consumava quasi tutto in conti del medico, perché la sua capacità di patire malattie immaginarie non era diminuita col lavoro e col bisogno, al contrario, non faceva che aumentare di anno in anno. Faceva in modo da non chiedere niente a suo padre per non dargli l'occasione di umiliarla. Di tanto in tanto Clara e Jaime le compravano indumenti o le davano qualcosa per i suoi bisogni, ma in genere non aveva denaro, neppure per un paio di calze. La sua povertà contrastava con i vestiti ricamati e con le scarpe fatte a mano con cui il senatore Trueba vestiva sua nipote Alba. La sua vita era dura. Si alzava alle 6 del mattino, estate e inverno, a quell'ora accendeva il forno del laboratorio con addosso un grembiule di tela cerata e zoccoli di legno, preparava i tavoli da lavoro e batteva l'argilla per le sue lezioni, con le braccia immerse fino ai gomiti nella creta aspra e fredda. Per questo aveva sempre le unghie rotte e la pelle screpolata, e col tempo le si deformarono le dita. A quell'ora si sentiva ispirata e nessuno la interrompeva, sicché poteva cominciare la giornata fabbricando i suoi mostruosi animali per il presepe. Poi doveva occuparsi della casa, della servitù e degli acquisti fino all'ora in cui cominciavano le lezioni. I suoi alunni erano ragazze di buona famiglia che non avevano niente da fare e avevano adottato la moda dell'artigianato, più elegante che non lavorare a maglia per i poveri, come facevano le nonne. L'idea di dare lezioni ai Down era stata prodotto del caso. Un giorno era arrivata a casa del senatore Trueba una vecchia amica di Clara che aveva con sé suo nipote. Era un adolescente grasso e molle, con una faccia tonda da luna, quiete e un'espressione di tenerezza inalterabile nei suoi occhi orientali. Aveva 15 anni, ma Alba aveva capito che era come un bebè. Clara aveva chiesto a sua nipote di portare il ragazzo a giocare in giardino e di stare attenta che non si sporcasse, non annegasse nella fontana, non mangiasse terra e non mettesse mano alla patta dei pantaloni. Alba si era annoiata in fretta di sorvegliarlo e, davanti all'impossibilità di comunicare con lui in nessun linguaggio coerente, se l'era portato nel laboratorio di ceramica, dove Blanca, per tenerlo tranquillo, gli aveva messo un grembiule che lo preservasse dalle macchie e dall'acqua. Egli aveva messo in mano una pala di argilla. Il ragazzo era rimasto occupato più di 3 ore senza sbavare, senza farsi la pipì addosso e senza dar testate contro il muro, modellando rustiche figure di creta che portò poi a sua nonna in regalo. La signora, che si era addirittura dimenticata di averlo condotto con sé, rimase compiaciuta e così era nata l'idea che la ceramica andasse bene per quel tipo di ragazzi. Blanca finì per dare lezioni a un gruppo di bambini che andavano in laboratorio il giovedì pomeriggio. Arrivavano su un furgoncino, sorvegliati da due monache dalle cuffie inamidate, che si sedevano nel chiosco del giardino a bere cioccolata con Clara e a discutere le qualità del punto a croce e le gerarchie dei peccati, mentre Blanca e sua figlia insegnavano ai bambini a fare vermi, palline, cani spiaccicati e vasi deformi. Alla fine dell'anno le monache organizzavano un'esposizione e una sagra, e quelle opere spaventose venivano vendute per carità. Ben presto Blanca e Alba si resero conto che i bambini lavoravano molto meglio quando si sentivano amati e che l'unico modo per comunicare con loro era l'affetto. Impararono ad abbracciarli, a baciarli, a far loro moine, finché tutte e due non finirono per amarli davvero. Alba aspettava tutta la settimana l'arrivo del furgoncino con i Down. E saltava di gioia quando loro correvano ad abbracciarla. Ma i giovedì erano sfibranti. Alba andava a letto distrutta, le giravano in testa le dolci facce asiatiche dei bambini del laboratorio e Blanca invariabilmente aveva il mal di testa. Dopo che le monache se n'erano andate col loro volteggiar di panni bianchi e con i ragazzini Down tenuti per mano, Blanca abbracciava furiosamente sua figlia, la copriva di baci e le diceva che doveva ringraziare il divino di essere normale. Per questo Alba crebbe con l'idea che la normalità fosse un dono divino. Ne discusse con sua nonna. Oh, in quasi tutte le famiglie c'è qualche rimbambito o pazzo figliola, assicurò Clara mentre si affannava col suo lavoro a maglia, perché in tutti quegli anni non aveva imparato a lavorare senza guardare. Talvolta non li si nota perché li nascondono come se fossero una vergogna. Li chiudono nelle stanze più isolate affinché non li vedano quando ci sono visite, ma in realtà non c'è di che vergognarsene. Anche loro sono opera di Dio. Ma nella nostra famiglia non ce ne sono, nonna, replicò Alba. No, qui la follia si è divisa fra tutti e non è avanzata per avere il nostro matto in casa.